later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli sembra regnare una calma sospetta, K e Drago confermano la tendenza generale alla stupidità del maschio medio. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Senti questa, senti questa. Qui si entra e non si paga, ci si p*** e ci si c***a, e se il tempo non lo niega, ci si spara pure una bella c***a. Oppure questa. Solo per gli anglisti più raffinati, però, eh? Here I sit, so broken hearted. I came to shit and I only farted. Questa è bellissima, dai, sembrano versi di Swinburne. Vabbè, certo, Swinburne, anche lui, come me, scriveva sui muri dei gabinetti degli autogrill versi immortali quali... Le nozioni di primo di classe. Algernon Charles Swinburne, poeta inglese, 1837-1909. I suoi versi erano dominati da una sensibilità omoerotica e da una vena satanica che destarono scandalo nella società vittoriana. Scrisse a lungo per The Pearl, la perla, uno dei pochi libelli di letteratura gay nell'Inghilterra di quegli anni. Ma non ne conosci altre, K? Sì, però alla lunga mi annoio. Tu non ti annoi alla lunga? No. No, alla lunga no. No. Beh, allora, se vuoi ti racconto qualche barzelletta sui polli. Ah, bello, sì. Tipo, perché le auto dei polli hanno i tergicristalli o i tergicristallo all'interno? Non lo so. Perché quando guidano fanno... però la sapevo già sui carabinieri uguale. Beh, ma scegli tu il soggetto che vuoi e poi cambi. Sai perché l'auto di Drago ha i tergicristalli all'interno? No cosa? Non lo so. Ma come no, Drago? È la stessa barzelletta di prima. Vabbè, Drago, non hai capito, lasciamo perdere. No, ma ci sto provando, mi sforzo. Sì, si vede. Hai la clessidra di Windows che ti gira lì sulla fronte. La fabbrica di polli. Sguardo sulla programmazione odierna di Radio Saldahari, l'unica emittente in cui non si mangia carne di maiale e non si bevono alcolici, almeno in pubblico. E poi è una radio, e la radio mica si guarda, si ascolta. Il programma della giornata prevede La parola del Muezzin, seguita da Storia edulcorata dell'Irkmenistan Unito, 16ª puntata. A seguire, L'arte di pulire un narghilè senza poi puzzare come un cappotto appeso per una settimana invernale in un pub di Londra. Per finire, uno speciale jihad dedicato alla controversa questione del meglio una strage subito nel Mar Rosso o nel 2007 al Parlamento Europeo. Le due opposte scuole si sfideranno a colpi di tattica e di propaganda sotto lo sguardo benevolo ma severo del Mullah Saldahari. E ora la parola del Muezzin. La fabbrica di polli. scappa, c'è un problema. Qui la colonia dei piccioni è sempre più numerosa e sono aggressivi. Rubano il pastone ai polli e nessuno li mangia, quindi ingrassano e invecchiano come gli pare. Vabbè, ma di cosa ti stupisci? Questa fabbrica è uguale al mondo di fuori. Anche tra gli uomini ci sono quelli che rubano e ingrassano e poi nessuno se li mangia. Vabbè, ma il mondo di fuori è una democrazia e quindi c'è, come dire, il rispetto dei diritti di tutti. Qui invece c'è la dittatura. Solo che non si sentono nemmeno quei pochi benefici che le dittature normalmente portano con sé. Tipo? L'ordine e la disciplina, ad esempio. Tipo, i piccioni, se volessimo proprio essere spietati, andrebbero innanzitutto espulsi perché non hanno diritto di stare qui, è una fabbrica di polli, no? Poi sono portatori di malattie, lo sappiamo tutti. E poi sono qui a sbafo, non so come spiegarmi, mangiano gratis, fanno i prepotenti. Si riproducono. Almeno sterilizzarli. Figurati, costa troppo e poi rischi di rendere sterili anche le ovaiole, quindi... Galline, ovaiole, sterili, non sarebbe male, dadaisticamente parlando. Certo, i piccioni non solo si riproducono, ma hanno anche fondato un sindacato clandestino che sta estorcendo pastone a interi quartieri. Bisogna fermarli. Ma come no? E anche cercare di far capire ai polli che i loro veri nemici non siamo noi uomini. No! Ma sono loro. I piccioni, piccioni, piccioni. Un piccione! Ah! Dagli il piccione! Ah! Piccione! Ah! Ah! Ah! È un film! La giunta ha stabilito, mangime avvelenato. La nazione cresce la tensione. Oh mio Dio, un piccione, un piccione, un piccione, un piccione, un piccione, dobbiamo trovare la soluzione. Sei sterilizzato a spese dello Stato, non servi proprio a niente, solo sulla gente. E poi sei un piccione, un piccione, un piccione, non sei solo un piccione, sei solo un cacciagione, la cacciagione. Fabbrica di polli. L'Erkmenistan era unito, e anzi anche il continente attorno all'Erkmenistan era tutto Turkmenistan. Adesso ci hanno tutte sbattute in un fazzoletto da terra ridicolo, pietroso, senza petrolio. O almeno, con poco petrolio rispetto agli altri. Dunque è ora di ritrovare lo spazio vitale per popolo Turkmen e di invadere paesi vicini senza guardare in faccia nessuno, perché noi siamo Turkmenistan! Mlakhazalari! Azazalari! It is later than you think. I polli medio orientali sono più o meno come noi, Anche loro fanno parte della dieta dei loro paesi, come i polli indiani, I polli indiani. E quelli forniscono tutti i ristoranti indiani, pensa che sbattimento che hanno, Le mucche indiane invece no, quelle mi stanno sui maroni, perché quelle sanno che il loro destino è di morire di vecchiaia, Sono sacre, E non capita mica tanto spesso i polli, No. Il pollo è sacro solo quando è arrostito. In India non mangiano le mucche. In Europa non mangiano i gatti, i cani, gli insetti e un mucchio di altre bestie. In Medio Oriente non mangiano i maiali, e quindi nessuno leverà mai i maiali in Palestina, credo, no? A meno che non li usano per cercare i tartufi. Ma i tartufi in Palestina mica ci sono, no? Invece i polli fanno gol a tutti. Sì, quando un uomo ci guarda, noi siamo sempre sospettosi, Perché lo sappiamo bene cosa vedono gli occhi dell'uomo. Anche se si tratta di una gallina viva, con tutte le piume, la cresta, il becco, gli occhi dell'uomo vedono sempre il pollo appena uscito dal forno, con contorno di patatine, carotine e cipolline, E poi il pollo farcito dei pulcini, a loro volta farciti di mini wurster, Io qui se ci penso vado in sbattimento, Ma io non sono mica un pollo arrosto, Io sono vivo. Sono vivo e il becco ce l'ho, E che becco, Che cosa succederà adesso? In quale modo le vicende interne dell'Irkmenistan potranno confluire in quelle della fabbrica di polli? Lo scoprirete solo arrivando puntuali domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo geopolitico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Every night at 6:30. Ma girava Windows sul 286? 386. Sul 386. Era lentissimo. Come la te. Clessidra era tipo la cosa che si vedeva di più. Come te. Barumen.